lascia mi cantare di quella notte in Portogallo. L'oceano che appare nel Bartolomeo con dei finamente bello. Il vento da lontano resta piano piano un'eco lucida coimbra. Un altro mio bacio, un sogno incominciò, divina realtà di vento. Coimbra, Portogallo, un delizioso mare che l'anima saliente viene a carezzare. Coimbra, Portogallo, qualcosa di fatale che avvisa il cuore eternamente. Che avvisa il cuore eterno.